la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, giovedì 12 dicembre, 16:37:25, anche oggi tentiamo di aggiungere uno spicchio di riflessione alla vicenda che in questi giorni ha bloccato e un po' infiammato, parecchio infiammato anche l'Italia, la protesta del Movimento 9 dicembre, Forconi chiamatela come volete, anche oggi in corso in diverse città italiane. Nel frattempo i toni cambiano, la politica inizia a prendere delle misure e sono misure che esprimono giudizi negativi. C'è chi parla di fascismo e qualunquismo, se leggete il fondo per esempio di Giannini su Repubblica di stamattina parla di una jacquerie, quindi una forma di protesta popolare che ha a che vedere anche con insorgenze di poveri e contadine, ma di solito quando si usa questo termine si immagina che vengano poi strumentalizzate. E c'è un commento, questo commento di Giannini finisce poi con una cosa che mi ha fatto un po' sobbalzare, perché dice: in Francia poi il pujadismo, questa miscela di autarchia nazionalista, timore del nuovo, animata all'inizio da una protesta di commercianti, fu sbazzato via dalla Quinta Repubblica di De Gaulle. Non lo so se è un'apertura al presidenzialismo di Repubblica, mi sono grattato la testa. Il ministro degli interni Alfano inizia a alzare anche lui il tono e a dire che ovviamente non passerà la linea della violenza. Questo era come quella di Torino, hanno chiesto il potenziamento delle dispositivi delle forze a disposizione. È ovvio che molti degli esponenti che parlano, che vengono intervistati, lasciano perplessi. Pensate alla Zanzara Calvani ieri, che ha parlato di un governo transitorio con le forze dell'ordine e dei militari, cioè delle cose che uno le ascolta e dice ma. Però io ho visto ieri una riflessione su l'anima profonda del popolo che sfila in queste proteste, che mi ha molto colpito e che io condivido molto e che quindi mi limito a proporvi oggi. Con noi Aldo Bonomi, che da decenni guarda, secondo me con grande intelligenza, lui nasce come sociologo però è uno scrittore che ha interpretato le fasi del cambiamento dell'industria delle forme di produzione italiane nel loro radicamento territoriale. Andatevi a vedere veramente i libri di Bonomi, che è insieme, che ne so, a classici come Beccattini, che quello che in Italia radica la letteratura dei distretti studiata a livello internazionale. Bonomi ha saputo intrecciare alle specializzazioni radicate nei distretti una visione, secondo me, che accompagna con la stessa costanza dei rapporti del Censis, da un altro punto di vista, le trasformazioni sociali e territoriali dell'Italia che produce. Lo ringrazio di essere qui con noi oggi pomeriggio, grazie Aldo Bonomi. Buon pomeriggio Giannini. Allora, ieri lei ha detto qui c'è un'Italia, non ringrazio i complimenti, lei ha detto qui c'è un'Italia che sfila in questa cosa, lasciamo perdere se strumentalizzata o no, che però è la fotografia profonda di pezzi diversi di un'Italia in crisi, le code della crisi del post-fordismo. Dica lei che cosa vede in questo popolo dei disperati. Beh, io credo che non c'è bisogno di essere ricercatori sociali, bastava, e le ricordo che noi una delle ultime volte che ci siamo sentiti, quando lei conduceva una trasmissione che si chiamava sempre su Radio 24 Disperati Mai. Esatto, sì. Se lei si ricorda il tono, che mi pare che risalga più di un anno fa, esatto, il tono delle telefonate che arrivavano, a cui si cercava di rispondere: attenzione, non disperatevi, non raggiungete la soglia del conflitto rivolto verso se stessi, che può essere il dramma del suicidio. Però quando lei aveva aperto il microfono, arrivavano una serie di voci di quel popolo dolente, usiamo questo termine se vogliamo capirci, che anticipava quello che poi sarebbe successo. Se vogliamo essere un po' più analitici, io dico semplicemente che se non si guarda il dito, intendendosi per il dito, diciamo così, chi parla a nome di, e anche i proclami, le interpretazioni tutte molto ideologiche che vedo intorno, fiorire intorno a questo fenomeno del 9 dicembre, se uno guarda ai processi, al territorio, capisce alcune cose in maniera molto schematica. Io credo che siamo di fronte a una composizione sociale, se mi ha permesso di chiamarla, del non più, che non ce la fa più da tanti punti di vista, ma che non è più dentro alcuni cicli produttivi. Se io guardo la territorializzazione dei fenomeni e la composizione sociale che abbiamo davanti, io vedo ad esempio che Torino mi rimanda alla desertificazione del fordismo che è avvenuta tanti anni fa, certo. Poi ha cercato di andare oltre rispetto a questo, ma se guardo quella composizione sociale in cui ci sono i bancarellai, ovviamente so benissimo che attribuire un significato sociale ai bancarellai, a qualcuno che ha la puzza sotto il naso, può significare poco indicativo. Sono quelli delle bancarelle, dei mercati, dei mercatini, sono, diciamo così, quel capitalismo molecolare diffuso dei commercianti, delle piccole imprese. E se lei guarda a Torino, c'è una composizione sociale che è rimasta sul terreno di operai disoccupati, di casse integrati, di giovani che non trovano lavoro, di commercianti in difficoltà, il ciclo delle piccole imprese che era dentro il ciclo rassicurante della Fiat Fordista e della sua fornitura. Quella è una dimensione di non più che è rimasto sul terreno e che ha tutta una serie di problemi di visibilità. Spostiamoci pure in un altro epicentro. Se lei va nel nord-est, io nel nord-est ero il 9 dicembre, ero là, e ovviamente, guardi, si figuri, ero a fare un seminario con le start-up, quindi con il non ancora, con tutto ciò che viene avanti, con Donadon, Ispharm, diciamo con le cose su cui puntiamo per valorizzare, diciamo così, lo sforzo dell'innovazione delle nostre imprese per uscire dalla crisi. Eppure... Eravamo circondati da quelli del non più, e il non più sono le piccole imprese che avevano solo un mercato locale, un mercato nazionale che non tira, che sono fallite e che hanno una dimensione di questo genere, i giovani precari eccetera. E qui aggiungo, se vogliamo aggiungere una terza territorializzazione e così capiamo alcune cose in più, il mezzogiorno. Sappiamo benissimo che dentro la crisi il mezzogiorno non ce la fa più, ma perché nel mezzogiorno è finito un altro modello, che era un modello tragico che io non condividevo, ma era quel modello dello sviluppo senza autonomia, perché c'erano i fondi pubblici, ma i fondi pubblici ormai che tenevano assieme quella composizione sociale non ci sono più. Quindi se uno guarda queste tre cose, l'epicentro del fordismo e del vulcano fordista, l'epicentro del post-fordismo del nord-est in crisi e l'epicentro del mezzogiorno degli aiuti pubblici che non c'è più, capisce che siamo di fronte a una composizione sociale sofferente. Aggiungo alcune cose. Io questa composizione sociale, guardi, sa benissimo che io vado per territori eccetera, l'ho vista sui territori, ma per studiarla meglio sa dove sono andato? Sono andato nei centri di ascolto della Caritas. I centri di ascolto della Caritas da due anni a questa parte mi segnalano che sempre più persone vanno lì perché hanno perso il posto di lavoro, sono cassi integrati, non riescono ad avere i soldi per il mutuo, sono piccoli commercianti o piccoli imprenditori che hanno perso la loro attività e sono quelli che si vergognano della miseria, perché ovviamente non erano abituati quei centri medi, sono quelli che non vanno al front office della Caritas a chiedere i soldi, ma girano nella sacrestia per andare dal prete a chiedere un aiuto rispetto a questo. E quindi non abbiamo visto emergere una dimensione della povertà stressata da questo punto di vista di cui avremmo dovuto occuparci. Allora la interrompo un secondo perché abbiamo un minuto di informazioni stradali anche sui blocchi. La mia domanda è: in questi anni, di fronte a questo emergere di milioni, stiamo parlando di 9 milioni di italiani che stanno poco sopra la soglia di povertà relativa, 4 milioni e mezzo stanno sotto quella di povertà assoluta, 9 milioni di italiani, 1 milione e mezzo, 3 milioni di disoccupati in totale, 1 milione e mezzo quelli aggiunti nella crisi, oltre 1 milione e rotti e mezzo i cassi integrati. Allora, di fronte all'emergere di questo popolo del non più, come lo chiama Bonomi, tutti quelli che adesso dicono sono fascisti, sono qua, dov'è? Perché? Come si può ridurre tutto questo solo a ordine pubblico, pur essendo io un legalitario? Questa è la domanda da cui ripartiremo. Intanto, strada. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta questo giovedì 12 dicembre, 16:48, primi 37 secondi, molti messaggi a dire la verità di SMS. Abbiamo due ascoltatori intanto rapidi alle telefonate. Cominciamo con Alessandro che ci chiama da Macerata. Prego Alessandro. Buonasera. Signor Oscar, volevo solamente dirle, io sono un piccolissimo imprenditore, una partita IVA faccio l'importatore di materiali per calzature, sono 25 anni che faccio questo mestiere, è il primo anno che va male, ma non ne faccio un dramma. Volevo solamente segnalarle che nonostante ciò io vado in giro con una macchina, diciamo, decente, più che decente, e socialmente mi sento quasi un delinquente perché mi guardano tutti come se fossi un mezzo evasore, quando io sono stato sempre coerente e congruo per 25 anni. E vedo invece che i dipendenti pubblici mi trattano quasi come un evasore, perché indubbiamente noi partite IVA siamo per definizione evasori. Nonostante questo, volevo solamente segnalarle che l'anno che va male, ho tre assegni protestati qui dentro la macchina, vengo adesso dall'avvocato, mi sono recato dal commercialista perché volevo cambiare la macchina di mia moglie, 10.000 euro si tratta del cambio della macchina, me l'ha proibito, letteralmente proibito, dicendomi con la sua dichiarazione di quest'anno, assolutamente lei non può cambiare la macchina. Dico, ma scusi, dopo 25 anni che io faccio un mestiere e ho tirato la baracca avanti da solo, con decenza e bene, anche con qualche buon risultato, io non posso avere una scorta per comprare 10.000 euro una macchina a mia moglie. No, me l'ha proibito perché la mia dichiarazione di quest'anno, che è perfettamente veritiera, altrimenti non torna con l'acquisto. Ma guarda, io non volevo segnalare la mia razza, ma lo so, solo l'assurdità. No, l'assurdità, perché funzionano così, chiunque abbia esperienza, io pure con la mia, la due società e la mia di partita IVA, sa che oltretutto andando verso il redditometro adesso è diventato ancora più stringente questo regime. Sentiamo ancora rapidamente Andrea che ci chiama da Como. Prego Andrea. Sì, buonasera. Io volevo semplicemente segnalare, visto che stavate parlando di forconi, esatto, mi sono trovato sfortunatamente in una coda all'entrata per l'uscita di Modena, stavo guidando, la prima volta ho fatto una coda volentieri, volevo semplicemente segnalare, visto che ci sono molti giornali che focalizzano su queste persone che stanno manifestando, per la prima volta ho avuto piacere a fare la coda, uno era arrivato al casello e queste persone manifestando pacificamente mi hanno offerto un panettone, sono stati molto... ho anche le foto, volendo potrei anche pubblicarle. No, soprattutto Andrea, testimoni che non sono io a chiamarla, come alcuni ascoltatori che pensano che qua è tutto, siamo tutti d'accordo. No, io non ho nessun filtro delle telefonate, né dico sì o no a nessuno. Quindi Andrea ci chiama perché vuole testimoniare che al casello di Como è successo questo e io lo ringrazio. Torniamo con Aldo Bonomi. Allora, di fronte all'emergere in questi anni, sono anni e anni di questa più grave crisi a prezzi correnti da che esiste la Repubblica Italiana, no, da che esiste l'Unità d'Italia, di perdita di reddito, eccetera. Questo, di fronte a questa emergenza del popolo del non più, come lo chiama lei, com'è che le classi dirigenti nel complesso, ci metto anche in media, ci metto tutti, ma nel complesso le classi dirigenti non hanno saputo apprestare strumenti interpretativi di risposta, secondo lei? Beh, io mi do una risposta abbastanza semplice. La prima è che c'è una crisi della rappresentanza e questo è politico e quindi non è solo un problema di non comprensione del rapporto tra quello che sta avvenendo in basso e la dimensione dell'alto della decisione politica. C'è una crisi della rappresentanza, tenga in conto che tutti questi fenomeni non hanno trovato una rappresentanza né sindacale dal punto di vista dei lavori e del lavoro, né ovviamente dal punto di vista dell'impresa. Questi fenomeni non hanno trovato una rappresentanza e una voce rispetto a questo. Secondo passaggio, c'è un mutamento anche del conflitto, mi sia permesso usare questo termine. Se prima il conflitto era un conflitto lineare, nel senso che avevamo soggetti in difficoltà, licenziamenti, problemi eccetera, ci si organizzava, si faceva la manifestazione per rendersi visibili, si aveva i propri delegati che andavano a Palazzo Chigi e lentamente si cercavano di portare risposta. Questa linearità del conflitto si è rotta, nel senso che ovviamente questo popolo silente ha capito che dal centro non arriva più nulla se non la legge di stabilità, non è che ridistribuisce risorse, ridistribuisce tagli ulteriori e quindi ovviamente non è che c'è questa fiducia che rimane in piedi e si è rotto il conflitto, anche il conflitto si è fatto molecolare, non è più un conflitto visibile eccetera, molti sono perplessi perché il conflitto si è fatto molecolare, si vede un conflitto diffuso a bassa intensità. E secondo lei chi è che ha, quelli che si candidano in tanti, da destra a sinistra, da fuori dall'attuale Parlamento, da dentro, a interpretarlo, hanno delle buone chance secondo lei oppure no? Ma io credo, ho visto sento e leggo che il dito si è molto mosso, cioè a fronte di questa luna che ormai tutti quanti vedono, di questa dimensione qua, il dito si sta muovendo, uno puntando il dito o alzando il dito come la maestrina della penna rossa e dando, diciamo così, dei giudizi ideologici, in cui non entro rispetto a questo, sono tutti poi dei giudizi ideologici presi a prestito del Novecento, che si dimenticano che siamo dentro il nuovo secolo, dentro una crisi ovviamente epocale di metamorfosi completamente nuova, e quindi bisognerebbe anche cambiare i linguaggi. Ma detto questo, ovviamente vedo che adesso c'è la rincorsa a salire a bordo, anche sì, dal punto di vista non c'è vale solo per Renzi, ecco, per così no, dire vale anche c'è la rincorsa a salire al bordo, perché ovviamente abbiamo un'elite senza popolo, e quindi ovviamente appena si muove un popolo, che sia ovviamente un popolo ovviamente che non è più il popolo del Novecento, che eravamo abituati, tant'è vero che lo si definisce populismo, ma è il nuovo populismo, non è il populismo del Novecento, è una nuova forma che viene avanti, dentro questo c'è la rincorsa. Ho l'impressione che questa rincorsa non serve, e da questo punto di vista mi sono anche abbastanza tranquillo anche alle rincorse estremistiche, ci siamo capiti. Anche, mi pare che l'esempio del panettone fatto prima, sono conflitti molecolari, diffusi a bassa intensità. Possono avere delle punte ad alta intensità, ma sono pezzi del Novecento che vengono avanti. Allora, io devo ahimè fermare e ringraziare Aldo Bonomi, dico solo a chi è in ascolto. Sì, lo so, molti di voi dicono, ma come, questi vogliono più Stato, vogliono... Lo so, il mio compito non è dire che sono d'accordo con loro. Non vedere milioni di italiani ridotti così è la cecità, la sconfitta, la scomparsa di una classe dirigente. Questo è il punto.